Suka ci sei. Marco, mi senti? Marco, mi senti? Marco, ci sei? Eia, e qua sono, comportabile. E ok, no problem. Allo, Luca. Che paura, che paura a me. E qua, Luca. Che mari? Dormito sì. Dormito sono me, Giovanni. E me morte l'ha portato a spara di oggi. Ehi, io ma non mi sono andato no, Giovanni. E me come facete, sai cosa che sta facendo? Che meglio il caldo, vai, all'asciutto. No, non faccio Maria, adesso appena esce il sole dicono di andare, che ne escono tanti. Con quest'acqua che ha fatto? Infatti, ne trovi di più, adesso cresce. Se fa un paio di giornate belle, se ne trovano parecchie. E quelli piccoli, che adesso come ha piovuto, crescono molto. Ehi, va, Maria Mario. Tocca andare martedì, perché lunedì sono a piedi. A piedi? Come vai? C'è la Marina la macchina. Vabbè. È morto. Ho preso, c'è morto. Luca. Cosa, mio Mario, ho capito? È morto, non si può andare. Ah, cosa è morto? No, io, ma era morto, lo sai solo d'estate. Ma d'inverno, ha giubiato troppo, non solo freddo, va un bel, no. Poi la moto non c'è assicurazione, adesso non è più come prima. Se te la fanno la targa, così se hanno assicurato o no. Infatti, no, non bisogna toccare allora, no. Almeno sei tranquillo che si dà che quei soldi per le magiche per la faccia di loro. Ma Gufo sta facendo, come si dice, una cultura con il computer. Deve essere attaccato al computer, se no sarebbe entrato. Quando si punta non la finisce. C'è stato un periodo che sta quasi un mese che non entrava, è sempre al computer. E poi sempre quelle cose delle donne, capito? Ah, di Bucarisa Baita, cioè. Si è scritto a con gli amici, capito? E allora è sempre con quelle lì. Ce lo darà a me qualche giorno, quando avrà qualche virus, ce lo porterà a me. A me ti ha detto. Aspetta. Vabbè. Lasciamolo fare se lo parcheggio, dai lui. Infatti, dai, io lo stesso ho chiamato, non è entrato, più entrato. Beh, stasera qua, se è pazzesco, non è entrato nessuno, manco un'anima. Vuol dire che hanno paura di questi tuoni, questi lampi, là. No. Lui entra quando non sa cosa fare, ci chiama, capito? Va comodità e non va bene così. Giovanni, detto chiaro e tondo, cosa ci vuoi fare lui? Guarda che quando si attacca all'apparecchio Graziano non la molla più, se c'è uno che gli dà corda non si ferma, sta ore attaccato e già trova sempre il punto da aggrapparsi. È come se qua amici non ne abbia, ce li ha gli amici, no? Cosa ne dici? A lui interessa quelle le femmine, che poi a che cosa? Se mi c'è la Rosi l'hai avuto a capo un computer. Sì, la devi incazzare a Rosi, voglio vedere, che avevo qui a capo al vero. Ha detto, datelo ancora a me, Giuseppe, anche di quelli carina. Sì, vabbè, io il computer vabbè lo usavo anni addietro di più, adesso un po' meno, cioè praticamente pago l'internet per niente, mi ha detto regalando i soldi. Che alla fine la mattina sì, vabbè, faccio qualche acquisto, ma sai cos'è, che non lo uso più come prima. Magari perché magari dopo uno si stanca anche, capito? Io se ci sono un mezz'ora dopo mi fa male la testa, mi fa male gli occhi anche, che devo spegnere, per esempio, anzi, l'ho acceso e una mezz'oretta così Ma guardandomi così, apparecchi, va a guardare solo, capito? Pago 10 euro al mese io, eh. Io pago 68 ogni due mesi. 10 euro al mese pago io, cazzo, ogni due mesi 20 euro, eh. Vabbè, per come lo uso io, per come lo usi tu c'è una bella differenza. Io scarico i driver per il computer, insomma scarico, dai, scaricando i giga ci vogliono. Mentre a te sicuramente te li consuma se scarichi, invece a me no. I miei sono 24 ore su 24, sempre. Io uso poco e niente, io acquisti non ne faccio tramite queste cose, perché non ci riesco, capito? Ma guardare così, guardare magari apparecchi e robe varie, pinzi eccetera, capito? Ma non per altro, no, no. Ma poco e niente lo uso, certe volte so anche 15-20 giorni che non lo tocco, capito? Oggi già l'ho acceso un pochettino. Così, tanto per vedere, là. Sì, ma cosa ti hai tu là? Quella specie di saponetta, no? Oh! No, siamo in due qua, quella mia nuora che ci abbiamo tutti insieme, capito? Paghiamo metà per uno e così che ce l'ho io e lui e lei, capito? Sì, ma cos'hai? Internet di casa, fisso? Ma sei uscito, Ho detto che è internet di casa. C'è l'internet, ce l'ho, c'è al computer, in casa non ne ho, no. Al telefono di casa non ce l'ho. No, io ho anche il telefono di casa. Ah, vabbè, alla fine lo usa mia madre per chiamare il cellulare, non paga, Puoi chiamare all'estero, puoi chiamare dove vuoi. Tutto limitato. Prima pagavo quasi 80 e poi me l'hanno calato a 67 o 68. Io ho il contratto con la Vodafone per 3 anni. All'anno prossimo mi scade e lo tolgo, non ne voglio più il telefono di casa. Tanto noi non usiamo il telefono di casa, capito? Siamo tutti e due che ognuno c'ha il telefono suo e per cui non ho. Ah, che cosa, capito? Quanto paghiamo noi ogni due mesi? 40 euro ogni due mesi paghiamo, ma ce lo togliamo all'anno prossimo, capito? No, non lo usiamo. Paghi un bel, vabbè io ne pago 60, ma c'ho internet. Non so se ti fanno chiamare ai telefonini o al telefono di casa, se ti fanno chiamare all'estero, non so. Io ho tutto il pacchetto. Infatti ho detto, scusate, io pago troppo, mi hanno proposto di meno. Infatti mi ha detto, aspetti un attimino, gli ho dato nome e cognome di mia madre, e poi da lì hanno controllato, guarda, se vuoi li possiamo offrire a questa cifra, gli ho detto, guarda che non aumenti di 1 euro, perché lo cambio. E per il momento sto pagando quella cifra lì, perché ci sono dal 2011, mi sa, 2011, 8 anni, 7 anni con loro. Ma infatti io pago troppo, poi non me lo tolgo, capito? No, il telefonino non lo puoi chiamare. Io al telefonino lo posso chiamare dal mio, capito? Sì, anche quello c'è. Una volta perché non mi funzionava il telefonino, ho provato e me l'ho fatto un casotto da loro, capito? No, ma infatti io, Giovanni, ho detto, se mi offrite un pacchetto come Dio comanda, rimango qua. Veramente stavo facendo disdetta e cambiare. Poi quel tipo, guarda, aspetti un attimo, e mi ha fatto questa cifra. Ed è buono, dai, 67 euro, già li levo lo stesso, perché magari mi escono dei lavoretti, da uno 10, dall'altro 10, e alla fine me li metto da parte e riesco a raccimolare quella cifra lì. Perché levandoli di tasca mi sono pesanti, anche se lavoricchio, ma non è che lavoro e poi mi pago internet, a me in tasca non mi entra niente. Guarda, chiedo 5 euro in più quando faccio dei lavori e da lì riesco a ricavarne i soldi della bolletta. Vabbè, tu, voi lo usate di più, ma noi il telefono di casa non lo usiamo, ma raramente facciamo qualche telefonata. Che cosa me lo lascia fare? Io sto pagando senza telefonare, capito? Così che non conviene. Infatti l'anno prossimo io piglierei, come finisco il contratto lo distacco, non lo voglio, tanto i nostri figli ci hanno i telefonini, per cui anche loro telefonano il telefonino, altre case raramente, qualche volta al telefono, capito? Sempre al telefonino. E per cui siamo molti telefonini, allora quelle case lo tolgo, capito? Sì, sì, vabbè. Quello di casa va bene, magari adesso. A mia madre gli sta anche bene, perché lei lo usa. Ma poi si ricarica anche il telefono. Gli ho detto, usati questo qua, tanto lo ce l'hai, puoi chiamare a tutti, puoi stare quanto vuoi. Insomma, il giramento di scatola è che si deve prendere il numero, scriverlo nella tastiera del telefono, perché col telefono che ho adesso non c'ha problemi, non mi fa memorizzare i numeri, non so, è da cambiare. Adesso vediamo, se riesco lo compro un altro, gli memorizza i numeri, quelli che chiama di più, così va direttamente alla rubrica e chiama. Insomma, ogni volta deve digitare il numero per chiamare. Faccio, memorizzi che sei tranquillo. Beh, costa poco, giù per casa, così che lo usa ogni tanto, no, va bene, uno di quelli costerà anche poco, che te ne sa. Non c'è bisogno di avere un telefonino da 200 euro, no. Ma scherzando, sai, tu. Io ne ho uno che mi avevano dato per, come si è posto, un computer, ma non c'avevo soldi. E allora, mi dà anche la differenza. Va bene, così è stato. Poi una volta che gli ho riparato il computer, mi ha detto che c'era solo lo scambio. Infatti con questo ragazzo, che lo conosco da anni, ci ho bisticciato, ho detto prima mi dici una cosa e poi mi dici un'altra. No, ma di questi soldi non abbiamo parlato. Vabbè, mi ha lasciato questo telefono, che è un S5, e c'avevo un bel po' di tempo, ero lì per lì, lo aggiusto o non lo aggiusto, però il display costava troppo. Allora mi sono deciso, mi sono comprato il display, gli ho piazzato, funziona benissimo, display e batteria, gli ho piazzato, gli ho comprato, ce lo sto usando adesso, che è un telefono che all'epoca ha costato, non so, mi sono pagato intorno ai 600 euro. Faccio il tempo, io ho 4 io telefoni, e funziona ancora, funziona, adesso ultimamente mi ha regalato questo, che c'ho adesso. Poi l'anno scorso mi hanno regalato un altro, l'ultimo tipo della foto, e non l'ho usato, non lo sto usando quello da una parte, perché è troppo complicato, e non riesco quasi a farlo funzionare bene, capito? Invece con questo da adesso va benissimo, ormai lo conosco troppo e per cui so come maneggiarlo, capito? Ma cosa vuoi che secondo te mi mancano i telefoni a me? Infatti no, sono a 3, capito, nuovo ancora quello lì. C'è la batteria mezzo esaurita, ma il telefono è nuovo, basta comprare la batteria nuova, quello funziona come un bombò. Però c'ho questo modello adesso che fa tutto, e per cui vi lascio questo adesso. L'altro già dentro la scatola è nuovo, capito? Ma tu conta, ci avevo 4 fissi di computer e 4 o 5 portatili, tutti venduti. Mi è rimasto, vabbè, cioè il mio, quello che è personale, quello non lo do manco se mi pagano oro, quello mi trovo benissimo, ce l'ho anni, quello è anche un regalo, oltretutto. E adesso ne ho un altro che sto vendendo, però la gente non c'ha soldi. Io per darlo al regalo rimane a casa. E poi telefoni ne ho, c'ho tablet, più mani. Già non mi mancano queste cose. Allora io a computer ce l'ho, 4-5 anni questo qua. Pace, va bene, se sta sempre pensando bene, cazzo. Per cui, perché lo uso poche mesi, tu magari lo usi per fare altri lavori, eccetera, per cui chiaro che lo uso di più, ma io lo uso molto poco, raramente, capito? 10 minuti poi mi stancano gli occhi e devo spegnerlo, perché sennò mi fa male di testa, capito? Però tu lo usi, è chiaro che è tutta un'altra cosa, però di sai riparare già una cosa di buono, capito? Io me l'ho fatta solo una volta che c'erano troppi errori, l'ho fatta uno, mi ha cambiato anche un pezzo, ma sta funzionando bene ancora, già un paio d'anni che ancora non mi ha dato problemi, capito? Però vero, per quanto lo uso io mi sta camminando bene. Sì, vabbè, se ne fai uso, come hai detto, ti dura una vita. Allora, il computer ha bisogno che la ventola, no, si tira dentro la polvere, anche se non ne hai, per dire a casa c'è, perché se la butta dentro e poi la vuole pulita. Non dico, io la pulisco sempre, perché a casa mia io tengo la finestra aperta anche d'inverno, non riesco a dormire con la finestra chiusa e la polvere entra. Infatti io il mio lo pulisco una volta di pene, un mese e mezzo, ogni due mesi, dai. Infatti adesso è sporco, perché me ne accorgo quando fa un po' di rumore. Lo smonto un attimo, stacco la ventola, una pulitina con il coso, con il pennellino, e la ripiazzo e lui riparte con una bellezza. Comunque la ventola vuole pulita, ricordatelo, eh. Vabbè, io già coperto, mira, adesso ho coperto con uno complice, si può immaginare. Però è chiaro che un po' di polvere entra sempre, capisci? Per cui. Ma mi sta funzionando bene lui. Appena che fa qualche difetto faccio altro, lo prendo, lo chiamo e me lo metto a posto quello lì, perché quello fa questi lavori, è un tecnico che ha giusto il computer, capito? Non mi ricordo come si chiama, fa questi lavori e per cui ho pagato i 50 euro ma adesso pure anche l'aldifilo si mi ha messo. Bisogna vedere cosa ha fatto, che sistema operativo hai, Windows 8 o 7? Ho capito, a tratti stai uscendo. Ho detto, che sistema operativo hai, 7 o 8? L'8 mi sembra, l'8 è. Ma il PC è nuovo, di recente o ha qualche anno? No, è 3 anni già, è più. Allora, è nato con Windows 7 o con Windows 8? No, aspetta, mi stai dicendo che secondo me è un regalo che mi hanno fatto. 5 anni, cioè non so di questo lui. Non me ne intendo io, capito? Che marca è Acer, mi hai detto? Esatto, Acer. 5 anni fa, è nato con Windows 7 e ti hanno messo Windows 8. Sicuramente. Vabbè, ti ha preso 50 euro, cosa ti ha fatto? Ti ha messo l'antivirus, ma l'antivirus a pagamento o quelli gratuiti? A pagamento. Ascolta, no, siccome c'erano troppi errori, capito? Era troppo lento e per cui molte volte non mi funzionava, capito? Allora, gliel'ho dato e me l'ha detto mio nipote che sono amici con questo e è venuto, se l'ha portato via, è stato tutto 2 giorni. 50 euro è perfetto al 100%, capito? Vabbè, si sta messo un antivirus a pagamento, già un antivirus a pagamento costa oltre i 30 euro. Sembra strano. Questo antivirus non ti è scaduto ancora? No. Allora non è antivirus a pagamento, un antivirus a pagamento dura un anno, non dura sempre. Non lo so, non lo so, io non è in Nintendo, ripeto, non me ne intendo, io uso così, tanto per guardare a qualche. Ma non è che sono di quelli proprio che ci tengo a avere un po' questo e quest'altro. Oh, non sono di quello io, capito lui? Oh, io sono un po' ignorante in materia, Vabbè, cosa c'entra? Quando uno si fa l'esperienza, perché io ho iniziato da zero, piano piano ho imparato. Sei un po' di saga, però io mi arrangio, non ho problemi per il computer. Non ho un problema, so come risolverlo, non mica vado al tecnico, Prima magari avevo un po' di problemi perché non sapevo dove mettere le mani. Però col tempo uno impara, sa dove, quando qualsiasi problema. Ti faccio un esempio, quando un computer tu lo accendi, non ti accorgi che la ventola parte e poi dopo di un po' ti si spegne. Il problema si sa che la ventola che non va in protezione si spegne. Perdite una cazzata, poi ci sono altri vari problemi che dà. Tipo quando mette un suono, che magari può essere anche un tasto, la tastiera bloccato. Ci sono tante cose, Giovanni. Comunque, grazie a Dio, me la sono sempre cavata da solo. Sì, vabbè, tu sei giovane. Alla 80 anni io, cosa vuoi? Che a te imparare, viene mi dire a lui. Ma buffetti sì. Io uso così tanto per dire, guardare qualche cosa, ma se però non mi ha dato mai problemi. L'unica volta che mi dava problemi è perché era molto lento e che l'ho dato a questo qua. Ma il resto adesso già da parecchio sta funzionando perfettamente. Nulla, non fa nessun difetto, ecco, nulla. Mi l'ha provato anche Luca varie volte, per cui l'ha trovato abbastanza perfetto, capito? Sì, vabbè, poi non è che sto dicendo, c'è gente più brava che ha studiato. Quello non lo metto in dubbio. però grazie a Dio da già riesco. Tu conta, io sono riuscito anche a riparare una scheda video, però cavolo, mi sono messo e anche se ci ho tra virgolette perso tempo, però lo sistemate, va benissimo, va benissimo, era un pizzo da buttare questo, è proprio lo sistema da operare. Poi per installare il sistema operativo, gli aggiornamenti, tutte queste cose già me la cavo da solo. Eh beh, certo, se c'è sempre davanti è tutta un'altra cosa, io mi è sempre coperto, devo aprire sopra, certo, anche non tocca, allora magari forse è stato un mese così, magari da buio lo scopro e me lo accendo a vedere un po', sai cosa c'è? Che la batteria non tiene più di un quarto d'ora, lo tiene, deve essere già mezza partita, però lo lascio attaccato e per cui va bene ugualmente. L'unica cosa che c'è è la batteria che deve essere esaurita. Sì, vabbè, con gli anni, perché non si tiene la batteria attaccata, o non si usa con l'alimentatore, perché se l'ho visto. Poi, vabbè, mica siamo come te Graziano che va a vedere le donnine nude su computer. Certo, vabbè, non tutti siamo uguali, a lui gli piace così, io quelle cose le lascio da parte, non mi interessano, capito? Lui magari gli piace, certo, e anche lascia un frisi delicato, certo, qua con California. Questo male sono al telefono. Mi ha chiamato un amico, siamo quasi in uscita, oggi ci tocca. Uscire? Così è lui, dovete uscire? Sì, in uscita siamo. E alle 8:30 andiamo a mangiare la pizza. Tra una cosa e l'altra si fanno le 9 qualcosa. E poi andiamo da un amico, dai, che fa la serata, fa karaoke. Stiamo lì un paio d'ore. E niente. Sì, le 3 domani. Fai mezzanotte, 1:30, massimo 2 siamo a casa, dai. Grazie a te giovani, noi ce l'avamo, guarda, io avanti di notte ce l'ha. E abbiamo mangiato la pizza a cose da Daniele, c'era Daniele. E eravamo tutti noi, tutta la famiglia. C'era un compleanno e siamo andati a mangiare la pizza lì, capito? No, vabbè, questa pizzeria non ce n'è complesso. Dopo andiamo. No, vabbè, per quello che si spende, va bene, io me ne vado con lo stomaco pieno e pago anche poco. Secondo dove vai? A noi ci hanno esitato avanti di notte lì da Daniele, che la pizza non mi è piaciuta proprio, come pizza lì mi sembra che è proprio scarsa. No, questa qua dove andiamo noi è buona, ma me la fa buona. Ma io ho una nipota a Ussi che le fa buone, di solito andiamo lì a Ussi e per cui già ci tratta bene, dai. Però la Daniele, la pizza mi sembra che, non lo so, non mi è piaciuta, là. E dove vuoi la mia, dove rimane? Ecco, se da alla Bricomen. Ah, lo spedite. Eia. Pure le fanno buone lì, Giovanni, strano. Vedi, guai, io sono tutti, che a me non mi è piaciuta, l'ho mangiato in altri posti e mi è piaciuta. La parte di notte, sinceramente, non mi è piaciuta. Ma nemmeno la metà l'ho mangiata io, nemmeno mia moglie. E non sono stati contenti, capito? Sì, sai cosa, anche dipende dalla limitazione, dalla pasta. Poi sai lì, sicuramente era pieno il giorno, le fanno veloci le pizze, è normale che poi se hanno tempo te la fanno buona, te la cucinano bene, però se hanno troppo lavoro è così. Mangiare che fanno va bene, va benissimo, ma la pizza proprio non a noi, a me mia moglie non ci piace, capito? Come pizza non ci piace, l'altro da mangiare e l'altro cibo di tutto quello che fanno è buono e lo fanno bene, dai. Dipende dai gusti, la verità io dove vado adesso Ma c'è stato anche da altre parti, però sono bene qua. Poi vabbè, sono anche vicino a casa, perché io alle 9:30, dicevo, non quarto, vado appunto la mamma e mi viene più facile, sennò poi magari mi tocca scappare prima, se magari vado qua tipo per Danietta. Sono due passi da casa, vado a fare appunto la mamma e poi vado là, da quegli amici, da, per passare una serata insieme così, poi odore, una birretta e via. Ehi, va bene, ma anche qua la fanno bene, qua vicino a casa, capito? Poi siamo anche varie volte anche a coso, da bandiera gialla, e anche lì, guarda, sinceramente è buonissima la pizza, la fanno buonissima. Guarda, a me non è che mi piacciono le pizze, io le mangio poco e niente pizza, capito? Io preferisco un piatto composto, ma pizza non ne mangiare, però la torta l'ho mangiata per fare compagnia, perché tutti hanno mangiato la pizza e allora per dire che prendevo un altro piatto non andava bene. E ho mangiato la pizza, sinceramente non mi è piaciuta, e gli altri posti l'ha mangiato con molto piacere. Anche questi qua li fanno bene. Allora prendiamo il solito il mercoledì che gli danno anche la cocca in omaggio, capito? O il chirotto, capito? Ah, lì è la Latte Dolce? E qua vicino a noi, dai! Ah, ha cambiato Santa Maria di Pisa adesso, non c'è più qua. Ah, Danilo, un amico, dai. Quello parlava baracchino, mi andava dietro, Danilo il Gobbo. Ah, Rizzo, Danny Spizza, già è lui, sì. E ci sarei andato anche lì a mangiarla, però vicino a casa, parcheggio la macchina vicino a casa, sono due passi da casa mia, la macchina la lascio lì, vado dal circo da questi amici, poi verso le 9:30, diciamo un quarto, vado a fare l'appunto la mamma, mi prendo la macchina, me la porto lì vicino, anche se ha due passi, vabbè. E poi niente, sto un paio d'ore e poi me ne vado a casa. Accompagno Marina e poi me ne vado a casa. Ripeto, io non è che ci vado a tanto la pizza, certe volte la mangio per fare compagnia, per non dire che mangio altra cosa, capito? Non è giusto. Ma se no a me io pizza non mangio, però ogni tanto qua la ordiniamo, quella familiare ce la mangiamo qua, capito? Da quello lì. No, per lo sapevo che aveva cambiato. Infatti vicino alla farmacia dice che è stato in pizza. Non lo sapevo che aveva cambiato. No, anche quella lì la mangiava, abbiamo mangiato a me volentieri perché era buona, capito? Sì. Vabbè, Giovanni, dai, mi ha fatto piacere fare due chiacchiere, visto che ci sono tu, ma va bene lo stesso, non c'è problema, dai. Graziano, per i vari sui. Luca non entra più, gli altri magari sono andati a farati, manco Benito è entrato stasera. Vabbè, niente, buona serata Giovanni, salutami tua moglie, dai, alla prossima, ciao, io chiudo. Ok, ciao Giovanni, tutto là, ciao, buon proseguimento. Buona pizzata, allora, ci sentiamo. Alle prossime, ciao, chiudo. Ciao Giovanni, ciao.